chiamarmi più amico. Poi mi tratti così. Sono un cliente qui e pago, accontentami come ogni altro. Se sono io che lo dico, non avrei colpe né scrupoli. Picchia quei tasti lì, forza, colpiscimi che sono pronto. Mettici l'anima, quella che vuoi, dacci dei brividi, lavora dai, ho voglia di stare male, se suoni bene ti chiamerò, se ti chiamerò, se ti chiamerò. Anche tu, lei, avrete avuto una vostra canzone. Beh, io non so cantare e poi non so suonare, ma so pagare bene. Sigaro e grappa, tutto ciò che vuoi. Io accendo e stappo tutti i muti che il mio amico qua suonerà, suonerà, suonerà, suonerà. Suonaci, suonaci il pezzo che sai, mettici l'anima in